известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. And now it is my honor to introduce to you our leader in the economic recovery of our state and the nation. Ladies and gentlemen, welcome the President of the United States, Barack Obama. Ah, noi questo accento con questa vera sembra un po' così la R dura di Arnold Schwarzenegger ci piace un sacco e deve piacere un sacco anche ai californiani che l'altra sera lo hanno applaudito mentre accoglieva durante il suo breve ma intenso tour sulla costa ovest il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Arnold Schwarzenegger è stato anfitrione entusiasta dell'arrivo in California di Barack Obama. Raccontavamo ieri che la California così ha un po' protestato, si era sentita un po' abbandonata dal presidente tutto occupato in ben altre occupazioni dall'altra parte d'America, 5.000 km di distanza, con le questioni economiche che ben sappiamo, ma ha avuto due giorni liberi per fare questo viaggio ed è stato un gran successo. Tra l'altro un'altra famiglia di attori sulla costa est invece piangeva. Ieri c'è stata una toccante cerimonia proprio a Broadway, nel quartiere dei teatri e dei cinema di Manhattan, per onorare la povera Natasha Richardson, la moglie di Liam Neeson, l'attrice parte di una grande famiglia che è morta per questo incredibile incidente sulle piste di sci. E pensate che tutti i teatri e i cinema di Broadway per un minuto hanno quasi spento le loro luci. Il quartiere dello spettacolo ha un po' contraddetto, no? L'adagio secondo il quale lo spettacolo deve sempre andare avanti, poi ogni tanto ci si può anche fermare a riflettere su quanto sia caduca la vita, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo però Barack Obama, che ieri era in palla perché ne ha fatte di cotte e di crude, tra cui un messaggio all'Iran di peso forse quasi epocale, ne parliamo nella seconda parte del programma, registrato neanche abbiamo capito quando, perché il vestito è lo stesso della improvvisata di cui diremo ora, ma però cambia la cravatta, gli avranno dato una cravatta grigia più adatta a parlare agli iraniani, invece con una bella cravatta rossa. A un certo punto ha lasciato i vari incontri, riunioni, appuntamenti nella zona di Los Angeles a cui ha partecipato, è andato a Burbank dove c'è lo studio di Jay Leno del talk show serale brillante, più divertente, più amato dagli americani, insieme a quello naturalmente di David Letterman, il Tonight Show della NBC, appunto gestito dal grande Jay Leno. Ha fatto una sua apparizione di cui adesso vogliamo dare ampia cronaca, perché c'è tanto dell'Obama del momento, un presidente capace di alti e bassi, di scherzare, sorridere, ma anche di essere molto serio e dire cose importanti a chi lo ascolta. Tra l'altro vi ricordo, martedì c'è una conferenza in prime time televisivo rivolta a tutto il pubblico americano per aggiornarla sulla condizione del lavoro, dell'intervento sulla economia nazionale e internazionale. Da Gelino è andato comunque soprattutto per parlare di cose abbastanza leggere, abbastanza divertenti. Gelino è soprattutto un comico e anche qui è venerdì, tra un po' sono quasi le fatidiche 5, insomma prendiamola un po' alla leggera, ma sentiamo che cosa è successo. Ecco Barack Obama che arriva. I'm excited, I'm honored to introduce my first guest, the 44th President of the United States. Please welcome President Barack Obama. E questa è la marcetta che la Resident Band dello studio di Gelino dedica al presidente che fa ingresso nella sala. C'è subito uno scambio di affettuosi convenevoli. Gelino appare sinceramente commosso dalla presenza del presidente. And you're the only guy who can get him to wear it. You know, it's funny because the last time you were here, you walked. Dice, ma l'ultima volta che sei venuto qua, sei entrato tranquillo, avevi la giacca sulle spalle, tranquillo, nessuno che ti stava intorno. Adesso è un po' cambiata la situazione. And this is an example of life in the bubble. Dice, guarda, Barack Obama racconta qui da presidente è veramente vivere in una bolla, e racconta questo episodio. Dice, l'altro giorno siamo atterrati a Costa Mesa, vicini a un un Luna Park, io devo andare a questo meeting, ho visto quel Luna Park e ho detto ma potremmo arrivarci a piedi fino al posto del meeting, saranno 500 metri, e quello del servizio segreto gli ho detto no sir. Allora io ho provato a calcolare, gli ho detto ma guardate che è vicinissimo, dai cerchiamo, quanto sarà? Sarà 5 minuti di camminata, possiamo andare? E loro hanno risposto sì, sono 5 minuti presidente, ci scusi. Ma poi pare che al ritorno invece l'hanno fatto andare da solo, dice, però mi sono un po' scocciato perché dietro di me c'era il medico che camminava con il defibrillatore. Racconta poi che con Michelle scherzano sempre attorno a questa condizione di First Family, no? Dice, quando ci muoviamo si muove veramente tutto un mondo, insomma c'è la nostra macchina, poi dietro c'è l'ambulanza, poi c'è una macchina che chiamano Cambusa, poi c'è la macchina dei cani, poi dice c'è anche un sottomarino nella fila di macchine, nella sfilata di macchine che ci seguono sempre. Poi ci sono stati altri momenti divertenti della chiacchierata e momenti anche più seri. Proviamo a sentire un altro estratto. Qui è Gerino che gli dice, ma qualcosa a New York sta cambiando. Abbiamo visto Bernard Madoff andare in galera. Bene o male, per qualcuno è stata una soddisfazione. Most of the stuff that got us into trouble. Obama risponde, sì, qualche soddisfazione c'è stato e ti spiego un piccolo segreto. Molte delle cose che stanno creando guai in questo momento nell'economia americana in realtà sono perfettamente legali ed è per questo che dobbiamo intervenire e cambiare le leggi. Prendi per esempio le carte di credito, è legale, no? Caricare il 30% su delle carte di credito come tariffa, come surplus sulla carta di credito. Il problema è che la gente non lo sa. Se tu ti compri un tostapane e ti esplode in faccia, c'è una legge che arresta chi ha costruito quel tostapane e c'è comunque qualcuno addetto a controllare quel tostapane. Se ti esplode in faccia una carta di credito o ti esplode in faccia il mutuo che hai stabilito per comprarti casa, invece è perfettamente legale. Non c'è nessuno fino a oggi che controllava quelle cose. Adesso sarà diverso. Jay Leno ha tirato fuori a più riprese la figura più controversa dell'attuale amministrazione americana, il segretario del Tesoro Tim Geithner. Now, Treasury Secretary Geithner, he seems to be taking a little bit of heat here. Dice, sembra un po' nei guai per tutta questa storia, eppure sembra un tipo in gamba. Obama prende decisamente le difese di Geithner. I don't think people fully appreciate the plate. Dice, io non penso che la gente abbia capito con che tipo di pietanza abbiamo servito a Geithner. Qui non è solo una crisi bancaria, lui si trova a fronteggiare come prima barriera la più spaventosa recessione dalla grande depressione. C'è una industria automobilistica al collasso, deve coordinare tutto questo sul piano internazionale e ha a che fare con me e ha a che fare con il Congresso e fa tutto questo con grazia e con un buon umore. Ha una poltrona bollente ed è lui il primo incaricato di far muovere la nostra economia. Insomma, dice Gerino, tu gli hai detto buona fortuna, vai avanti tu che a me puntini puntini. E Obama dice, ma attenzione, il fatto è questo, io ho piena fiducia in Geithner, tutto quello che fa è sotto la mia responsabilità, sono io che gli devo dare gli strumenti per agire al meglio e se lui sbaglia la gente dovrà prendersela principalmente con me. Allora, Jay Leno e Obama testa a testa, ci torniamo tra poco. We'll be right back. President Obama al proprio show non è proprio una cosa che ti capita tutti i giorni. Non a caso Jay Leno in un certo senso poi ha offerto ampia gratitudine al presidente per avergli confezionato questa puntata deluxe, lo ha stuzzicato pochissimo, è stato in realtà un onesto complimentoso comprimario, ha offerto ampio spazio a Obama perché insomma desse fondo ai suoi argomenti e più che altro si è divertito a ricamare sulle questioni più leggere, sulla aneddotica che già sta nascendo sempre più ricca e florida attorno alla Casa Bianca con questa nuova First Family. Torniamo a ascoltarli un attimo. A un certo punto Jay Leno gli ha fatto la domanda che un po' tutti, secondo me, davanti a una pizza e a President Obama gli farebbero, ma com'è insomma avere, no, farsi qualche giretto sul Air Force One? Let me ask some personal things. Now, how cool is it to fly in Air Force One? Obama risponde, beh guarda, francamente lo considero piuttosto cool, dice lui, anche perché poi ti danno il giubbotto col marchietto. Because they give you, you know, the jacket with the seal on it. Oh yeah. Sì, ti mettono le ali, no? Le ali sul giubbotto. Dice sì, dunque, prima di tutto Obama dice hai il giubbotto. Poi per esempio quando Malia e Sasha, le mie figlie, vengono sull'aereo, però loro non sono molto impressionate dalla esperienza. Per esempio sono state sul Marine One, che credo sia l'elicottero, no? Dice vai lì, ci sono i Marines che ti salutano e questo a loro è piaciuto molto, la sfilata con i Marines. Dice poi stavamo volando sopra i monumenti di Washington, visti da vicino e dall'alto, uno spettacolo meraviglioso, e loro se ne fregavano e guardavano, dice, sul tavolino, dice, ma quelle caramelline, dice, sono Starburst, le pilloline dolci che piacciono alle ragazzine americane. E Obama gli ha detto sì, dice, ma guardate lì c'è Lincoln Memorial, guardate per favore fuori dai finestrini. E le bambine fanno, ma possiamo prenderle quelle caramelle? Ma prendete le caramelle, ma guardate, insomma, conclude Barack Obama che ci sono due metri diversi di coolness, no? Per le bambine la cosa fondamentale era che le caramelle erano gratis. Oh, si è arrivato fra Jay Leno e Barack Obama anche a parlare di basket. Io tra l'altro faccio ammenda, ieri nella confusione, no, dell'aver preso appunto della notizia, ho dato una notizia sbagliata, un'informazione sbagliata, mi scuso con Barack Obama, sicuramente si sarà risentito, perché ho detto che aveva pronosticato Louisville come vincitore del campionato universitario di pallacanestro. No, l'ha pronosticato come finalista, ma il campionato secondo lui lo vincerà North Carolina, secondo me lo vince Oklahoma, poi vedremo alla fine delle cose chi avrà ragione. Non a caso lui è presidente, ma anche Jay Leno si è voluto informare a riguardo. Now you picked your final four? I did. Okay, how about your final one? Hai scelto le quattro del final four, gli dice Leno. Certo, dice Obama. Dice, hai preso anche il vincitore, hai scelto il vincitore. Sì, sì, dice Obama, secondo me vince North Carolina. Poi dice, mi dispiace molto per il mio aiutante che era un ex Reggie Love, che era un ex giocatore a Duke, mi dispiace per l'allenatore Coach K di Duke, ma secondo me vince North Carolina. Leno dice sì, però guarda, c'è gente che sospetta che tu hai scelto le squadre che arrivano, che vanno più avanti, che vanno meglio in questa fase finale sulla base degli stati dove hai preso meno voti, insomma che ti sei voluto un po' ingraziare gli stati dove sei andato meno bene in fase elettorale. E lui fa un po' il finto risentito e dice beh, io effettivamente ho preso North Carolina, Indiana, Iowa, beh sì, dice no, è una coincidenza, assolutamente una coincidenza. Argomento finale, ultimo pezzo di divertente conversazione fra Jay Leno e Obama. L'argomento più scottante visto dal basso, cioè nella lista del chi se ne frega, poi in alto ci sono quelli seri che discutiamo tutti i giorni, ma qui siamo sul leggero e c'è proprio il numero uno, primo in classifica da diversi mesi, secondo me, nella lista del chi se ne frega di casa Obama, è tragicamente il cane. One last question. Now, when is the dog coming? I keep Quando diavolo arriva il cane, gli chiede Jay Leno. Dice guarda che io ormai sono uno di Washington, la mia era una promessa di uno di Washington, quelli che non le mantengono mai, no? No, no, sto scherzando, il cane sta arrivando. We'll be there shortly. Dice sì, dice ho da fare, devo andare a un summit della NATO, perché poi mescola cose enormi e questioni di cane. Dice ma quando torniamo il cane arriva. Dice, ma che cane è? Un cane portoghese? It's not a waterhead. No, dice, non si chiama waterhead come lo chiami te, perché se si chiamasse waterhead, testa d'acqua, dice, sgocciolerebbe in casa e Michelle si arrabbierebbe. Dripping around. I don't know what it is. We're gonna get a dog that I think the girls will. Il fatto è che non si ricorda come si chiama il cane, manco lui, perché probabilmente lui questo cane non lo vuole, oppure si prenderebbe un bastardino. Ma poi conclude dicendo: la vuoi sapere una cosa? Il cane l'ho preso per un motivo, perché se a Washington vuoi avere uno straccio di amico, beh, devi farti un cane. Che è una bella conclusione per descrivere l'aria che tira nella affascinante e pericolosa, perigliosa città di cui in questo momento President Barack Obama è il numero uno, e dove è tornato precipitosamente dopo l'incontro con Gelino, teletrasmesso, ha registrato questa comunicazione in occasione della festività nazionale iraniana, di cui parleremo tra poco, ed è già ripartito per Camp David. Nella seconda parte, non vi preoccupate, arriva il vostro Facebook di argomento africano, papale, ma soprattutto riguardo al famoso tema della prevenzione in discussione in questi giorni. Poi notizie, e poi parleremo addirittura di orti biologici a stelle e strisce. Emiliano, tu continui a scrivermi pigrizia. C'è un refuso dal correttore automatico di Word. Il direttore Nigrizia. I correttori automatici dovrebbero, secondo me, tagliargli le mani, come dicono da certe parti i correttori automatici, perché sono veramente un pericolo pubblico. So che non è il nostro, come dire, tema. Per esempio, c'è l'ex ministro Buttiglione, che nei correttori finisce Bottiglione. Bottiglione, ma il direttore di Pigrizia. Esattissimo. Comunque, questo per dire che abbiamo avuto tre ospiti, uno per giorno, a discutere della questione, l'abbiamo ribattezzata una guerra culturale, che ci piace in quanto guerra di parole e non di altro genere, esplosa attorno a ciò che sull'aereo, come Barack Obama registra messaggi all'Iran, Benedetto XVI approfitta per tirare vere e proprie bombe mediatiche, come la questione legata alla inutilità del preservativo obiettivo per combattere l'AIDS. Sapete benissimo, perché non si parla d'altro su tutti i media, cosa è successo dopo. Noi abbiamo avuto prima Franco Moretti, il direttore di Nigrizia, poi Mario Zamponi, ricercatore di Bologna Università, dove insegna storia e istituzioni dell'Africa. Ieri abbiamo avuto un accalorato, appassionato Don Filippo Di Giacomo a dare una lettura trasversale della questione, e oggi a chiudere tutto ciò per Express Yourself abbiamo semplicemente voi. Abbiamo chiesto la vostra posizione sull'argomento, come giudicate le strategie di comunicazione del pontefice evidenziate in questo viaggio in Africa e poi la dichiarazione in se stessa. E allora, grandinata, diluvio di commenti pro e contro il Papa e le cose che ha detto. Io comincio dal laboratorio musicale permanente di Portici, evidentemente un gruppo di persone che hanno un portavoce che ci scrive: in un continente così pieno di problemi come l'Africa ci mancava solo il Papa a rincarare la dose, come se non bastasse. Poi c'è Stefano, che è abbastanza dalla parte di Benedetto XVI, perché dice: il Papa non ha parlato solo di condom, si è riferito anche alle multinazionali che depredano l'Africa. Tutto sommato, pur non condividendo assolutamente la prima affermazione, non si può non essere d'accordo con la seconda. Fammi un bilancio, un totalino. Prevalgono i giudizi critici nei confronti di Benedetto XVI, però c'è qualcuno che spezza una lancia a suo favore. E c'è Dario invece che dice: penso che questa volta i nostri politici, quindi analizza anche il comportamento della nostra politica, i nostri politici abbiano fatto bene a non intervenire, a glissare sull'argomento, a differenza di quanto hanno fatto in Francia e Germania. Il Papa fa il suo mestiere, ognuno poi farà il proprio. Luigi: la posizione presa dal Papa è indifendibile moralmente e umanamente. Andrea: Giovanni Paolo II da giovane era stato un attore, come nessun altro è stato capace di usare i mass media. Benedetto XVI è un professore di teologia e non è in grado di comprendere certi meccanismi mediatici. Andrea Berti, in questa triade di cattivi, dice: Ratzinger è un pessimo comunicatore. 3-0. Io invece riparto da una bella domanda di Fabio. Qui forse dovremmo richiamare in corsa Filippo Di Giacomo. Ma c'è qualche teologo del Vaticano che riesca a spiegare, Bibbia e Vangelo alla mano, perché il preservativo non dovrebbe andare bene? Si può arrivare alla risposta comunque. Sì, sì, sì. Poi c'è Francesco invece dalla parte del Papa. Il seme. Il pontefice non ha detto non ci devono più essere i preservativi, ha detto che il solo uso dei condom non è la via d'uscita per sconfiggere l'AIDS. Ha richiamato tutti a un uso più consapevole della sessualità, anche attraverso la fedeltà e l'astinenza. Flavio: le uscite del Papa negli ultimi tempi sono davvero imbarazzanti, quella sulla riammissione dei preti lefebvriani mi sembra la più indicativa. Massimo: se il Papa voleva tirarsi addosso l'opinione pubblica ce l'ha fatta, per fortuna anche nel mondo cattolico, vedi i missionari che da anni combattono questo flagello, c'è chi prende le distanze. Lorenzo: mi pare ovvio che l'astinenza è il miglior modo per non diffondere HIV, ma purtroppo, come sempre, la Chiesa e questo Papa, non che il precedente fosse meglio, testimoniano non tanta bigottaggine ma incapacità nell'affrontare la modernità. Andrea: c'è sempre troppa attenzione da parte dei media alle opinioni del Papa sulle questioni sessuali. Giuseppe: come comunicare male cose buone. Mauro: ha ragione il Papa, l'AIDS non si batte con i preservativi, lo si previene, infatti si cura con puntini puntini le staminali. Aspetta, ancora qualcuno? Possiamo dire di Gianni, che invece non è per niente indulgente col Papa: temo che la Chiesa Cattolica si avvii verso un periodo di oscurantismo che non credo porterà lontano. Invece Mukeba dice: in Africa è molto diffusa la leggenda che ci si cura l'AIDS con una semplice doccia o avendo rapporti sessuali con una vergine. Dire che il preservativo non aiuta nella lotta contro l'HIV è pericoloso e lascia strascichi dannosi per le future generazioni. Ancora un paio. Massimo: il preservativo al momento è l'unica arma contro una malattia curabile ma ancora non guaribile. In Africa l'uso saltuario del preservativo ha limitato del 30% la diffusione del virus e non è male. Alessio: il condom è utile ma non risolutivo. Matilde: sarò contenta il giorno in cui il Papa smetterà di intromettersi nella vita privata delle persone. Giampiero: non capisco la strategia mediatica che sta dietro a tutto ciò. Mauro: non credo sia un problema di comunicazione, il problema è che nel 2009 il capo della Chiesa Cattolica ancora pensa che il preservativo sia un'arma del demonio. Riccardo: c'è stato un Papa che della comunicazione ha fatto il suo baluardo, mentre questo Papa una ne pensa e cento ne dice. E infine Ale, che cita Pino Corrias: quanto vale quel Dio e quanto valgono le parole Papa Ratzinger contro l'uso dei preservativi? 1000 morti, 10.000 morti. 360 gradi. Insomma. Dai punti sensibili del pianeta. Ce n'erano per tutti i gusti, insomma, molto appassionati i nostri ascoltatori su Facebook. Le parole di Obama all'Iran, un video espressamente dedicato, rivolto in occasione del Nowruz, la festa del nuovo anno secondo l'antico calendario persiano, al popolo iraniano. Ascoltiamolo un attimo. Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around. In sostanza Obama dice questo: per tre decenni le relazioni fra i nostri paesi sono state tese, ma durante queste feste ci viene ricordato del comune destino che ci tiene legati. Queste celebrazioni custodiscono la promessa di un giorno nuovo, nuove opportunità per i nostri figli, sicurezza per le famiglie, progresso per le comunità e pace tra le nazioni. Sono speranze condivise, sogni comuni. Per questo, in questa stagione di nuovi inizi, vorrei parlare chiaramente ai leader iraniani, perché non esistono, perché esistono serie divergenze accresciute col tempo, ma esiste la possibilità di impegnarsi in una diplomazia che risponda alle questioni aperte tra noi, costruire legami costruttivi con l'Iran, gli Stati Uniti, la comunità internazionale, un processo che non può andare avanti se continuano le minacce. Noi vogliamo un impegno onesto e fondato sul rispetto reciproco. Io dico, caspita, parole grosse. Parole grosse, anche se ci sono state reazioni informali positive da parte di qualche addetto al Ministero degli Esteri. Di fatto la TV di Stato iraniana ha totalmente ignorato il messaggio, quindi è probabile che la grandissima maggioranza degli iraniani non ne sappia niente. Però gli iraniani hanno il satellite, molti. Hanno il satellite. Quindi possono forse spiare i media occidentali. E c'è stata infatti Al-Alam, che TV diffusa in arabo, che ha rimandato il messaggio. Ci sono interventi negativi da parte di molte televisioni arabe, ci sono anche vostre mail che parlano di come Israele è entrato in ballo in tutta questa questione, a sua volta con delle prese di posizione, ma noi siamo già in area notizie. Ne do una rapidissima che tra l'altro ci porta proprio su quello di cui parleremo tra pochissimi istanti, perché mentre in Israele ci sono soldati che parlano di Gaza, dicono cose forti, pesanti, però c'è anche la stampa locale israeliana che le pubblica. In Cina un ex soldato che partecipò nel lontano, ma neanche troppo, 1989 alla sanguinosa repressione di piazza Tiananmen, a giugno ci saranno i 20 anni di questo triste anniversario, questo giovane soldato all'epoca aveva 18 anni, adesso è cresciuto, è stato arrestato in Cina per aver chiesto la revisione del giudizio che il Partito Comunista di all'epoca di questo fatto, che rimane nel male il più importante degli ultimi decenni della Cina. Succedono invece cose ben diverse altrove, per la precisione in Israele, dove c'è un giornale che si chiama Arez, che ha pubblicato il primo di una serie di articoli che hanno colpito la nostra attenzione. Sono articoli in cui soldati dell'esercito israeliano, IDF, che hanno partecipato all'occupazione di Gaza, articoli in cui raccontano di comportamenti a dir poco impropri, quando non proprio di veri e propri eccidi, o comunque di varie vergogne che purtroppo si intrecciano spesso alla storia di una guerra. Fa specie comunque che in tempo così breve si proceda a una elaborazione della condotta del proprio esercito in modo pubblico e con questa chiarezza. Però per parlarne abbiamo convocato Maria Grazia Einardu, che da qualche tempo ci aiuta come conoscitrice di Israele, insegna storia di Israele moderno all'Università di Firenze, in diretta con noi. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio. Ti faccio qualche domanda telegrafica, ma per aiutare a capire i nostri ascoltatori. Prima di tutto, che cos'è Arez? Ce lo puoi presentare in due parole? È il più autorevole, ma non necessariamente il più diffuso, giornale israeliano. Esiste dagli anni 30, appartiene a una famiglia, anche se ora la sua proprietà è più articolata, ed è un giornale liberal. Tradizionalmente Arez è sempre stato letto più dall'intelligenza, dai diplomatici, dai giornalisti, che non dagli israeliani. Infatti ha sempre avuto una scarsa circolazione cartacea. Oggi, da almeno 10 anni, anche più, a Arez, è un giornale disponibile online in un'edizione inglese pressoché integrale rispetto all'edizione ebraica, ed è e rimane un giornale di estrema autorevolezza e anche ben fatto. Oh, qual è stata la tua reazione davanti alla, insomma, all'apparire di questi articoli, una questione comunque sofferta, difficile, dura, come i fatti di Gaza di qualche settimana or sono, così da vicino, già rivissuta attraverso queste testimonianze che insomma aprono ferite quando non ne riaprono addirittura. Ci dicevi che non è una novità, vero? No, non è una novità, anche perché Israele è un paese complesso, anche il suo esercito è un esercito complesso perché rispecchia pari pari l'opinione pubblica. Ci sono da 40 anni e passa dei militari di Israele che raccontano e quindi inevitabilmente protestano. All'indomani della guerra dei 6 giorni venne pubblicato un famoso libro, Il Settimo Giorno, in cui i soldati raccontavano quello che avevano fatto, e alcune delle cose che avevano fatto non erano cose di cui andare orgogliosi. Poi sono stati i militari a dare impulso al primo grande movimento pacifista, Pace Adesso, che nacque subito dopo la guerra del Libano dell'81, e c'è una miriade di movimenti fondati da militari che oggi vengono denominati refusnik, cioè coloro che rifiutano o di servire nei territori o di compiere azioni di un certo tipo. Per esempio, pochi anni fa alcuni piloti si rifiutarono di compiere azioni di bombardamento su Gaza. Per concludere, comunque sono filtrate queste testimonianze anche attraverso quella che possiamo supporre sia la rete di controllo, no, da parte delle forze armate. È un fenomeno sorprendente. Come lo giudichi? No, non lo considero sorprendente. Tutto questo è nato in ambiente militare, cioè soldati che parlavano a giovani cadetti in attesa di entrare nell'esercito. Poi è stato fatto filtrare, ma di questo non bisogna stupirsi, perché c'è appunto una tradizione ed è molto importante che i soldati raccontino questo al paese, perché forse sono l'unica voce che il paese può ascoltare su questi temi così terribili. Bene, grazie a Maria Grazia Nardu. Queste, come vi diceva Maria Grazia, il sito di Arez, arez.com, è consultabile in inglese, stanno già spuntando anche sui nostri notiziari questi racconti, sono piuttosto impressionanti, al tempo stesso hanno anche un tasso di veridicità, danno una versione in più, un aiuto in più a capire cose che sono accadute, di cui per ora abbiamo soltanto un racconto frammentario. E allora finiamo la settimana di Jefferson parlando, come si dice, di cose buone, buoni sapori, cose naturali, cibi sani e via discorrendo. Perché? Perché se frugate tra le notizie americane ne spuntano diverse che riguardano delle novità che stanno succedendo da qualche giorno, da un paio di mesi a questa parte alla Casa Bianca, ma che poi negli ultimi giorni hanno preso una forma più precisa per mano non del Presidente, in altre cose affaccendato, ma della First Lady Michelle Obama, che si sta occupando, no, come ogni brava padrona di casa, di cominciare a ristrutturare a proprio uso e consumo e anche a propria somiglianza le abitudini, i ritmi, gli usi, i costumi della casa che abiterà per i prossimi 4 anni. E alla Casa Bianca sta nascendo un orto biologico di cibi sani, gratuiti, no, come si dice, coltivateli e poi te li mangerai senza spendere soldi. E guarda caso, poi frugando sempre fra notizie, ci si rende conto che questa cosa già capita da qualche tempo in un posto che sempre assai americano è, ovvero l'Accademia Americana di Roma, che da qualche anno e fino al 2010 è diretta da Carmela Virgillo Franklin, che abbiamo con piacere in linea e che salutiamo. Buongiorno. Buonasera, buongiorno. Sì, insomma, la questione è che di qua e di là dall'Atlantico gli americani, che poi parlano instancabilmente, no, di cose buone, di cose sane che ci aiutano anche a nutrirci per bene, adesso stanno prendendo esempio, stanno guardando a quello che succede alla Casa Bianca, e poi scopriamo che voi in realtà all'Accademia tutto ciò già lo fate da tempo, all'Accademia Americana avete il vostro orto, e che tra questi due poli, Casa Bianca, Accademia Americana e Roma, c'è qualcosa in comune, vero? Sì, sì, infatti siamo aiutati, siamo stati aiutati qui all'Accademia Americana da Alice Waters, mm-hmm. che è il guru dello slow food in America, è proprietaria del grande ristorante a Berkeley nella California vicino San Francisco che si chiama Chef Anise, mm-hmm. e che circa 2 anni e mezzo fa, quasi 3 anni fa, ha accettato la nostra proposta a venire qui a Roma a conoscere la nostra bellissima accademia sul Gianicolo e di aiutarci a creare un sistema per la gestione della nostra cucina che producesse infatti un nuovo tipo di mensa per mm-hmm. un istituto come il nostro di valore sostenibile, alimentazione sana e anche di valore di interesse per protezione per il nostro pianeta, diciamo così. Quindi è da più di 2 anni che noi seguiamo questa politica alimentare che si ispira al slow food e alle Waters. Lo slow food naturalmente è incominciato qui, il movimento dello slow food. Allora, prima di tutto vogliamo sapere, siete soddisfatti? I risultati sono molto, graditi? Molto, siamo assolutamente soddisfatti, siamo contenti e ben nutriti. e poi la domanda invece è più interessante, ma voglio sapere, condivide l'idea, insomma, che il fatto che Michel, che sappiamo benissimo come sia rapidamente diventato un modello di ruolo, no, soprattutto per le donne americane, abbia intrapreso una iniziativa di questo genere? Secondo me c'è il rischio che possa diventare una vera e propria mania nazionale questa cosa, o no? Che dici? Sì, ma perché mania? È un'ottima una cosa. Buona come mania. Le Italie, sì, americani, certo. Non si nutrono bene, abbiamo proprio un grandi problemi di obesità già nei bambini. Certo. E quindi la nostra First Lady potrebbe essere d'esempio a tutti i genitori e a tutti gli americani per alimentarci meglio. Va bene, e poi si attende il giorno in cui Michel arriverà da queste parti e potrete, come dire, passeggiare nell'orto insieme. Sì, ci piacerebbe tanto ospitare la First Lady e il nostro nuovo presidente. Speriamo proprio che vengano prima che io torni in America, lo spero tanto. Oh, tra l'altro invece all'Accademia Americana succedono tante cose, spesso e volentieri è aperto alla visita del pubblico. Si può arrivare sì, anche sì, all'orto? Abbiamo, addirittura... Sì, sì, abbiamo tantissimi programmi che sono aperti al pubblico e noi voglio anche dire, ospitiamo non solo borsisti americani, sia studiosi che artisti, ma anche abbiamo un programma per borsisti italiani, sia artisti che anche studiosi e borsisti anche da altre parti del mondo, quindi anche se siamo un'accademia americana riflettiamo un'apertura al mondo e anche all'Italia, di cui siamo molto fieri, perché siamo un'accademia indipendente dal nostro governo, certo, siamo certo. Un'accademia privata, come lo sono tanti istituti e le grandi università americane. Bene, l'Accademia Americana ha anche un sito che potete visitare per contattare, essere a contatto soprattutto con i programmi che svolge, le opportunità che svolge. Ringraziamo Carmela Virgillo Franklin che la dirige e la dirigerà fino al 2010. Joel ci manda un SMS dal tono disperato. Qual è il sito per vedere NCAA, le finali di college? Oggi e domani sono qualcosa tipo 20 partite, 15 partite. E il sito è il più facile del mondo, ncaa.com, ncaa.com. Poi schiacciate un paio di bottoncini, al limite caricate un paio di programmini gestionali e vedete le partite. Giuro, io ieri sera l'ho vista in diretta, mi sembrava addirittura alta definizione. Boh. Programmoni, tutto gratis, eh? E allora questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, oggi la regia. A Roma è stata curata Valerio Rocchetti, a Milano da Fabio Cantadori, la mail jefferson2@radio24.it, le nostre pagine Facebook, iscrivetevi numerosi per aiutarci a fare il programma meglio. Redazione Jefferson 2 serve per parlare con noi, Jefferson 2, il 2 sempre scritto in parola, Radio 24, Express Yourself per partecipare ai nostri forum, la puntata come sempre va a mezzanotte, va in replica, è disponibile in podcast e altri formati attraverso il sito della radio www.radio24.it, mentre noi torniamo in diretta lunedì attorno alle 4 come sempre qui su Radio 24. Vi auguriamo un eccellente weekend. Jefferson 2, l'arte della svolta.